Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ciascuno di noi ha un luogo in cui ama rifugiarsi per stare bene, o meglio, per ritrovare la carica, la pace, la concentrazione, la serenità o per fare silenzio. Parlo di un angolo a portata di mano, vicino, familiare. Qual è il vostro? Cercatevelo nella vostra casa, nel vostro luogo di lavoro, nella vostra città e chiamatemi 800 24 00 24. Starete meglio. Potete sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Oggi vogliamo parlare della relazione tra ambiente e benessere, una relazione molto stretta che gioca su tante variabili che scopriremo insieme. Tendiamo ad attribuire il nome di casa a quei luoghi il cui aspetto corrisponde al nostro e lo legittima. Non è indispensabile che le nostre case ci offrano un riparo permanente o che contengano i nostri vestiti per meritare questo nome. Parlare di casa in relazione a un edificio significa semplicemente riconoscere che è in armonia con il canto interiore a noi caro. Alain de Botton. E che cos'è per voi casa? Vi rinnovo l'invito a chiamarci per raccontarcelo, 800 24 00 24, e che cosa vi fa sentire a casa? E giro la domanda anche ai due esperti che sono in studio con me, uno per la punta di casa, il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. E un altro, le case le progetta, ma non solo le case, anche le barche, l'architetto Francesco Rossi. Benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti i telespettatori. Che poi sono radio. Va bene lo stesso. Va bene uguale. Sono spettatori. Sì, ma l'importante è quello. Ma l'importante è anche che loro diventino proprio come noi, entrino sì. Nel nostro salotto buono per raccontarci che cosa è la casa, ma estendiamo naturalmente questo tema all'ambiente. Che relazione avete con l'ambiente? C'è qualche cosa che vi aiuta, vi carica? Raccontatecelo. C'è qualche cosa invece che vi disturba, anche cose piccole? Oggetti, rumori, una sorta di atmosfera che non vi convince tanto. Noi cercheremo proprio di modificare con piccoli trucchi, accorgimenti, consigli da occidente ad oriente, da oriente ad occidente, insieme al professor Tirelli e all'architetto Rolla, che ci racconterà tecnicamente, praticamente, che cosa possiamo fare per star bene nel questo microcosmo in cui ci muoviamo. Che cos'è per lei casa, professor Tirelli? Ma casa è per me lo spazio esterno in cui, entrandoci, sentiamo il riflesso del nostro spazio interiore, del nostro ambiente e soprattutto delle nostre progettualità. Quando siamo in sintonia con l'ambiente in cui viviamo o con l'ambiente in cui lavoriamo, è un ambiente che ci propone degli spazi di veduta futura, è quello nel quale vogliamo apportare il nostro io, il nostro essere, le nostre passioni, i nostri gusti, e che quindi ci rende quasi in coppia. È una comunione proprio tra lo spazio, come dicevi giustamente tu prima Nicoletta, tra il microcosmo e il macrocosmo. E per lei, architetto, che le case le progetta? Allora, anche case che vanno sull'acqua, che infatti, sono poi le barche. Infatti, fantastiche. No, permettimi una battuta, chiedere sì. Ad un architetto che cos'è una casa è un po' come chiedere a un astrofisico che cos'è il Big Bang, nel senso che l'architettura è nata proprio sul tema della casa, è probabilmente il primo che è stato affrontato. Io posso, parlandone in modo molto generale, forse anche un po' personale, dire che nella nostra vita di tutti i giorni esiste uno spazio esterno che è lo spazio della città. Ed è fondamentalmente lo spazio dell'incontro, del movimento e del lavoro. Poi esiste uno spazio che io definirei interno, che è appunto il luogo della casa. E diventa forse per contrasto rispetto al luogo del moto un luogo della quiete e della riflessione. Si può proprio parlare di luogo dell'anima, dove uno realizza le proprie affettività. E sono anche molto d'accordo con la lettura che abbiamo fatto all'inizio di Botton, proprio perché la casa può essere sì un oggetto fisico, ma anche un luogo della memoria. Quindi tutti quegli ambienti che ormai appartengono al nostro substrato psicologico dei ricordi ci danno la vibrazione di benessere che sì, per noi diventa casa. E quindi può essere anche semplicemente una bella valle di cui ci ricordiamo con affetto perché abbiamo passato gran parte della nostra infanzia durante le vacanze estive, ad esempio. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. Stiamo raccontando la casa come ciascuno di noi la vive o la vorrebbe vivere, ma anche nel nostro ambiente ci sono una serie di situazioni che possono in qualche modo rompere questa armonia, professor Tirelli, perché noi siamo condizionati dall'ambiente che ci circonda e a nostra volta lo condizioniamo, prendiamo e diamo energia. C'è qualcosa comunque che questo flusso può disturbarlo, ad esempio. Beh, e lo avvertiamo proprio anche a naso, a pelle, quando entriamo in un luogo, in una casa, in un ufficio, dove avvertiamo un'atmosfera che in qualche modo ci respinge. Potrebbero essere solamente magari lo sguardo del collega che non ti accoglie come vorresti o la battuta tagliente, ma oppure può essere un rumore di sottofondo, può essere un arredamento, può essere un colore. Tutto questo per sottolineare quanto è stretta la relazione che ci lega con quel microcosmo a cui facevamo riferimento. Sì, come sai Nicoletta, mi occupo sia della parte energetica rispetto allo sport e della parte energetica rispetto, diciamo, alla salute intesa anche come interazione tra noi e l'ambiente. Allora, facciamo una metafora, è questa: è lo sportivo, è l'atleta, il calciatore, ad esempio, che entra in uno stadio. È uno stadio nel quale lui sente avverso il pubblico, quindi fuori casa, in trasferta. Qual è la forza vera del calciatore che la differenza del fuori classe dal calciatore buono, normalmente buono? È che il fuori classe ha dentro di sé quella armonia, quella forza, quell'equilibrio che influenza l'ambiente, mentre un buon calciatore è influenzato dall'ambiente. Questo è il principio. Io ricordo, per esempio, tra i calciatori con cui ho avuto la fortuna di lavorare c'è stato Alessandro Del Piero. Io ricordo che una delle sue partite più esaltanti è stata proprio a Madrid, quando è uscito da Santiago Bernabéu con la standing ovation del pubblico. Quello è stato l'esempio di come noi interagiamo quando abbiamo forza interiore e forza mentale. Allora è vero che ci sono degli elementi che possono essere, diciamo, delle asintonie o addirittura delle antipatie con le persone, col luogo, però è sempre vero che tutto ciò dipende da quello che è la fonte del nostro equilibrio interiore. E a questo punto io dico che proprio io devo dare all'ambiente il mio stile, quello che io sono, è lo stile mio nei confronti dell'ambiente. E a proposito di stile, lo stile racconta infatti molto di chi ci abita, l'arredamento, l'ordine, i disordini, i colori, gli oggetti, tanto che basta superare la soglia, dare un'occhiata per rendersene conto, ma altrettante informazioni ci fornisce anche il nostro luogo di lavoro in cui passiamo gran parte della giornata, diciamo che è la nostra casa diurna. Mi state scrivendo al 349-238-6666, Roberto da Bergamo mi scrive: la mia casa è il mio laboratorio negozio di vetro. Un altro ascoltatore, Sergio da Trenta: io mi sento a mio agio quando vado in campagna, dove ho una mini casetta e sempre da fare, legna, orto. Mentre Patrizio: al lavoro indubbiamente il bagno, questo è il luogo in cui si sente a casa Patrizio, e a casa il mio piccolo laboratorio tutto fare, ma l'unica cosa che faccio è riflettere quando ne ho bisogno. Architetto, il luogo in cui viviamo, come lo arrediamo, parla di noi, anche del nostro stato d'animo, del nostro momento di vita, perché anche le case, la stessa casa cambia, certo, un po' con noi. Sì, Nicoletta. Sì, vero? Sì. Come arredamento, cambiamo i gusti, quindi questo, anche questo voler decidere di, certo, cambiare qualche cosa, vuol dire che qualcosa dentro di noi, sì, si è, diciamo, trasformato. Che la, sì, Nicoletta, diciamo che la storia di una casa segue un po' la storia delle persone che la abitano. Questo vale sia per le nostre case private sia per le grandi architetture. Immaginati che ci sono monumenti storici che sono partiti come templi, poi sono diventati delle cattedrali, poi sono diventati dei luoghi addirittura laici. Quindi c'è proprio un'evoluzione nel vivere lo spazio in base nel grande ai processi storici, nel piccolo ai processi nostri di vita quotidiana. Certo, basta solo pensare, architetto, la interrompo, come si modificano le nostre case quando abbiamo i bambini, da coppia, quando arrivano i bambini, raccontatemelo anche voi, quando i bambini crescono, poi ci sono gli adolescenti che diventano quasi un po' padroni di case, allora i genitori si ritirano per poi ritornare di nuovo, delle case da coppia, quando i ragazzi lasciano il nido. Assolutamente, sì. E mi sembra che uno degli elementi che aiuti questa continua modifica possibile della casa sia poi proprio l'uso del colore. L'uso del colore, che il colore ha diversi aspetti, nel senso che lo si può trattare in modo, diciamo, tecnico, scientifico, quindi un determinato spazio per le funzioni che si svolgono in esso ha bisogno di quel tipo di colore, oppure lo si può trattare in un modo più, diciamo, intimo, psicologico, quindi il messaggio che riceviamo da un determinato tipo di colore. E io vedo che, senza andare a stravolgere la distribuzione degli spazi interni, molte persone sentono la loro casa rinnovata in base a una nuova organizzazione semplicemente del colore, e questo ce la dice lunga sull'influenza che può avere il colore, certo, sulla psicologia dell'uomo e quindi sull'utilizzo degli spazi. Sì, che poi è una visione molto antica, perché anche nella medicina cinese i colori sono sempre stati un elemento di cura, addirittura complementari alle tradizionali metodiche di medicina, quant'altro, che anche oggi possiamo utilizzare. E poi io credo che avremo nel nostro proseguo della trasmissione anche il tempo per parlare degli oggetti, quando cambiamo degli oggetti in casa, particolari, certo, perché significa che stiamo cambiando noi interiormente. Avete cambiato qualcosa nella vostra casa, nel vostro ufficio? Laura Vanossi ed io dovremmo fare ordine, ad esempio, sulla nostra scrivania. Se avete cambiato, avete voglia di cambiare, se avete notato che c'è una parte della vostra casa, del vostro ufficio, che improvvisamente vi manda delle emozioni diverse, siete più a vostro agio, oppure in cui improvvisamente non state più bene perché qualche cosa si è rotto, chiamateci, perché arriviamo con il nostro staff. 800 24 00 24. Noi già ci trasferiamo a Modena perché c'è Maura che ci aspetta, e poi facciamo anche un saltino a Roma per Maurizio. Maura, buongiorno. Buongiorno. La trasmissione è bellissima, per cui complimenti, vi ascolto spesso adesso che sono andata in pensione. E questo della casa, avete già detto tantissime cose sulle quali sono completamente d'accordo. Io ho un'estensione della casa verso l'esterno, in luoghi poco costruiti, nelle nostre colline bolognesi, modenesi, dove c'è appunto questo paesaggio verde, molto bello, ancora abbastanza integro. E quando mi voglio rilassare, cerco di andare in questi luoghi per vivere in simbiosi quasi l'aspetto appunto di questo paesaggio. E il dolore più grosso che vivo è quando lo vedo disordinato e deturpato da noi persone. Certo. Per cui noi persone che è vero, piange, diciamo, un po' il cuore, Maura, è vero. Credo? Piange il cuore, come si dice. Sì, tantissimo, perché la natura ci regala qualcosa di bellissimo e noi siamo capaci quasi di rovinarlo, non quasi. Quindi Maura esce, l'architetto Rolla vuole intervenire, esce dalla sua casa perché si trova, è la natura che entra dentro di lei. Infatti, cioè, l'architetto, mi sento di dire che l'apporto dell'architettura in un ambiente può essere anche di valorizzazione dell'ambiente, ma la base di partenza è la qualità dell'ambiente. In Italia abbiamo una qualità dell'ambiente che è straordinaria, e sicuramente con l'architettura va in qualche modo tutelato. La signora poi parlava di un altro aspetto, secondo me importantissimo, che è il rapporto tra l'interno e l'esterno. Questo è uno delle anime da cui nasce l'architettura. L'architettura non è una scatola chiusa in se stessa, ma l'architettura è un ambiente privato che in realtà tende a portare le persone anche verso l'esterno, cioè a rapportarsi verso l'esterno. Io ho in mente, quando mi è capitato di progettare delle case proprio in dei contesti naturali, l'elemento forse principale della progettazione qual era? Era l'apertura, la finestra o la porta finestra, proprio perché l'apertura ti garantiva questo continuo scambio emotivo, psicologico, io dico proprio d'anima, tra quello che è il tuo vissuto interno e quello che è l'anima dell'architettura, sì. È un'anima. questo fluire interno esterno. 800 24 00 24, l'unica vera casa è il nostro cuore, mi scrive Adriano da Roma. L'unica, la mia casa dove sono adesso a potare i miei ulivi secolari. Questo un po' lo invidiamo, questo, sì, ascoltatore che ci ha mandato un messaggio. Andiamo a Maurizio che ci chiama da Roma. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Salve, io chiamo da Roma, tutti i castelli romani, diciamo, conoscete Frascati, Vermicino. Niente, io sono appassionato di ciclismo e quindi, cioè, non so se può essere apportato alla casa, però quando prendo, diciamo, la bicicletta, no, e mi metto sulla strada e penso, cioè, essendo appassionato di ciclismo, penso ai vecchi ciclisti. Certo, la sua casa sono le due ruote, in fondo. Sì, è proprio quel rapporto con la strada e il silenzio. E poi la testa che la testa va con la bici, le ruote, le gambe, è un tutt'uno. Poi capita che a volte con gli altri ciclisti, che ne so, ti affiancano, e sono tutte sensazioni. Quindi c'è, cioè, proprio questo fatto della strada, che vai tranquillo. Perché le due ruote ha ragione Maurizio, perché le due ruote ci permettono di riappropriarci della strada, che è casa anche quella. Grazie Maurizio. Emilia da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Emilia. Sì, io volevo sapere dall'esperto, nella mia vita, diciamo, ogni 10 anni io ho bisogno proprio di cambiare, in senso, come dire, la casa, tutto ciò che c'è intorno, però sì, sono sempre riuscita ad avere poi alla fine quello che io desidero. Quindi un cambiamento, anche a me piace cambiare, mi piacerebbe molto Emilia, e invitiamo anche i nostri ascoltatori ad approfittare del professor Tirelli e dell'architetto Rolla, proprio se decidete di cambiare qualche cosa, perché proprio perché oggi noi cerchiamo di sposare, modificare con piccoli accorgimenti l'ambiente che ci circonda come occasione proprio di migliore benessere. Professor Tirelli, abbiamo bisogno di un cambiamento. La nostra ascoltatrice dice: io ogni tot anni ho bisogno proprio di dare una rinnovata. È proprio quello che si diceva, lo spazio è uno spazio fisico, ma e anche, ci sono questo ritorna un po' all'idea dei cicli, no? Sì, proprio la ciclicità è chiaramente parte essenziale, naturale della nostra evoluzione, quindi abbiamo sempre la nascita di un processo, la sua massima espansione, la sua massima contrazione, fino alla trasformazione per un altro tipo di percorso. È chiaro che io devo usare in questo caso gli oggetti, i colori, tutto ciò che nel design, e lo vedremo dopo, associato anche all'anatomia, può essermi utile per capire che gli oggetti e la casa stessa influenzeranno positivamente il mio stato di salute, anche attraverso veramente degli esercizi, delle posture nuove, grazie al fatto che avrò adottato dei nuovi elementi di corredo, di ausilio all'arredamento, che saranno per me funzionali alla salute. Lo vedremo. Quindi, professor Tirelli, le passo la parola. Gli ascoltatori possono approfittare chiamando l'800 24 00 24 per avere un uso alternativo degli oggetti di cui si sono circondati. Questo, ad esempio, la sedia fatta per sederci, il divano anche, ma noi vi diremo anche altro insieme all'architetto Rolla, vi daremo però anche le caratteristiche della sedia ideale, ma non ci fermeremo qua, perché professor Tirelli parleremo naturalmente anche di colore, di aria, di stile. Ma voglio salutare la dottoressa Tatiana Torti, che è in linea con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni. Con la dottoressa Torti parliamo di ambiente e cerchiamo di capire se facciamo ordine o disordine, se siamo circondati, se amiamo vivere in luoghi in cui tutto è perfettamente messo al suo posto, oppure se invece siamo diciamo così, un po' più creativi, un po' più disordinati, e dove siamo ordinati e dove disordinati. Insomma, se siamo invasi dall'ordine e dal disordine, che rapporto abbiamo con gli oggetti che ci circondano? 800 24 00 24. Nessuno di noi è un ordinato puro o un disordinato. Ci sono sempre gli spazi della nostra vita in cui queste due dimensioni si alternano e si mescolano. Provate a raccontarmi la vostra, perché in linea con noi, dopo i mercati, la dottoressa Tatiana Torti ci racconterà che cosa nasconde un ambiente ordinato, mediamente ordinato, il caos, di che cosa abbiamo bisogno per stare bene soprattutto. Essere e benessere. Ciao amore. Ciao tesoro. È il regalo di nozze di Bob e Fading. Coraggio, troviamogli un posto. In quel mobile? No, lì vanno i bicchieri di cristallo. Possibile che ancora non riesci a orientarti qui dentro? Il classico ripostiglio? Oh mio Dio! Ma perché l'hai aperto? Sei disordinata? Mia moglie vive nel caos! No! No, no, senti, non è come credi. Ma va bene, lo confesso, anch'io non rimetto sempre tutto in ordine. Ordine o disordine? Non basta limitarsi a questa distinzione. Dottoressa Torti, c'è di più? Eh sì, c'è molto di più. Io riprenderei dall'ultima parola che abbiamo sentito, tratta da un film, credo, sì? Che appunto parte da un aforisma di Nietzsche, il quale diceva che bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Sì. Ecco perché io riprendo un po' il concetto di disordine o caos, che si voglia, perché ci sottolinea come il disordine sia un momento in realtà essenziale, è una fase sana che ci permette in qualche modo di raccogliere tante informazioni per poi snellirle successivamente. Pensiamo un po' al lavoro che fa il cervello da quando nasce a quando si sviluppa, e nell'evoluzione proprio cerca strategie più ordinate e semplici. Oppure pensiamo anche quando ragioniamo per risolvere dei problemi. Generalmente in termini tecnici si dice che si affrontano problemi con delle tecniche di brainstorming. Questo cosa vuol dire? Che c'è un momento in cui proprio si lasciano scorrere liberamente, in maniera anche disordinata, tutte le idee possibili. Poi successivamente si devono ordinare per scegliere la soluzione migliore. Quindi vediamo che in realtà, come sottolineavano anche i due professionisti precedentemente, c'è una fase di disordine sana che porta poi a una creazione. Sì. Vuole intervenire infatti l'architetto Rolla, che sul disordine si è attivato ancora di più. Gli piace perché? Il disordine nella progettazione addirittura sembra assurdo, ma è fondamentale, perché la prima fase, che è la fase creativa, cioè quando ti trovi di fronte al foglio bianco di carta e devi mettere giù delle linee che diventeranno poi un progetto, ecco, in quella è la fase, diciamo, più creativa e più disordinata, dove tu veramente sul foglio butti giù tutte le tue prime impressioni sul tema che ti hanno dato, che può essere la casa, come può essere l'ufficio o quant'altro. La fase invece di ordine, come diceva la professoressa, è la fase successiva, quando vai a limare il progetto per dargli la forma finale. All'inizio, insomma, è il caos. Ma il caos è una fase che serve. Ma una cosa invece un po' diversa è l'attitudine al disordine o all'ordine. L'attitudine all'ordine e al disordine sono delle tendenze comportamentali. Come dicevi tu prima, Nicoletta, in realtà non esistono i puri disordinati o i puri ordinati, esistono delle vie di mezzo. Più che altro possiamo dire che siamo ordinati, possiamo essere ordinati o disordinati in base agli ambienti che viviamo. Quante volte capita di constatare che una persona può essere molto ordinata al lavoro e poi a casa essere abbastanza disordinata? E questo non nasconde nulla di grave, anzi in realtà può nascondere un atteggiamento molto sano alla vita, un atteggiamento creativo, proprio perché si è capace di utilizzare diversi ambienti in modo flessibile. Come dicevamo prima, la casa è un posto che accoglie la continua trasformazione della personalità, è il luogo dove si vivono le storie, si iniziano, si finiscono, si fanno dei progetti, è il luogo che ci vede crescere e cambiare. Ripetiamo l'esempio dei bambini, che appunto quante mamme dicono che è impossibile tenere ordinata una casa quando ci sono in casa due, uno o anche un solo figlio. Infatti non bisogna preoccuparsi di questo, dico io. Assolutamente no, assolutamente lasciamo no. Tutto in disordine. Tutto in disordine. Libertà. E poi ci sono, dottoressa Torti, le persone che sono ordinate solamente in alcuni settori. Penso ad esempio alle persone che fanno ordine negli spazi comuni, e questo anche io credo per il rispetto delle persone che vivono insieme, ma sono disordinatissime nei cassetti, negli armadi, o sì, anche certo. Al contrario, c'è chi invece... O al contrario. Generalmente le persone che sono disordinate poi però rispettano gli ambienti comuni è proprio perché in qualche modo l'ordine rimanda proprio la regola sociale della buona convivenza, quello che accade al lavoro per esempio. Al lavoro io ho bisogno effettivamente di essere più ordinata per darmi un limite rispetto al tempo e allo spazio. Pensiamo all'organizer, all'agenda che limita quindi il tempo, oppure ai cassetti o alle cartellette che limitano in maniera ordinata lo spazio. Questo a casa diventa un concetto più flessibile. Insomma, nel cassetto delle calze posso decidere se metterle tutte belle oppure, vero? Sì. Che cosa lei nasconde anche no, i cioccolatini? No, mio papà nascondeva i cioccolatini perché non voleva che li rubassero. E quindi nascondeva nel cassetto delle calze. Però... quindi c'è una finalità in quello. Fantastico. Sì. Dottoressa Torti, ma fa bene per la nostra, coinvolgo anche il professor Tirelli, soprattutto perché dalle medicine orientali, dalla filosofia orientali c'è l'invito a mettere ordine, a togliere, a ridurre, certo. A fare pulizia. Sì, soprattutto Tirelli. Il concetto del cambiamento, ma il cambiamento è sia ordine e disordine, nel senso che giustamente Nietzsche diceva questo concetto della stella, la stella nasce dal caos, no? La stella nasce soprattutto da un'esplosione che è una forza immensa, apparentemente caotica, che si trasforma poi nella cosa più bella, più luminosa dell'universo e che dà vita stessa ad altri elementi. Allora, anche nell'ambito della propria casa, quello che è un proprio disordine interiore, ma diventa un ordine soprattutto nel rispetto degli altri, perché laddove io... per esempio sono una persona che tendenzialmente sono disordinata, ma per rispetto nei confronti delle altre persone con cui convivo, tendo a convivere, voglio questo mio ambiente sempre in una certa modalità. E questo accade anche nello sport. Uno può essere un talento creativo, ok, però non può esprimere la sua creatività disordinata sempre comunque. Un esempio che conosciamo adesso tutti, per esempio a Cassano, no? Un giocatore che è chiaramente creativo, ma laddove tu convivi in interazione con altre, nell'ambiente, con altre persone, devi comunque adattarti a quello che è il concetto di ordine. Dottoressa Torti, ci lasci con un consiglio per le persone che sono un po' maniache dell'ordine e per quelle invece che si lasciano andare in un disordine che invade il loro ambiente, gli spazi, che alla fine poi ci condiziona, ci complica anche un po' la vita, ci dà quella sensazione di libertà, ma che poi alla fine diventa quasi una gabbia. Certo, io darei due esercizi proprio. Sì. Alle persone estremamente ordinate, quindi che tendono a diventare un po' rigide, può essere quello di lasciare, non so, i piatti sporchi da lavare fino alla mattina dopo, oppure appunto mettere il disordine in cassetto, quindi esporsi a quel timore di lasciare qualcosa in ordine fa diventare un po' più flessibili, perché ci si rende conto che non accade nulla di grave. Viceversa, al disordinato invito proprio a scegliere degli spazi in cui, uno o due spazi in cui si esercita essere un po' più ordinato, quindi, e l'ordine lo decide iniziamo lui, dal cassetto, magari basta il cassetto quello delle calze dove il papà dell'architetto Rolla metteva i cioccolatini, un cassettino mini, però cerchiamo di metterlo a posto, anch'io lo farò. Esatto. Dottoressa Torti, grazie per essere stata con noi. Grazie un a voi, saluto e un giornata. Abbraccio Sonia da Brescia, buongiorno. E Nicoletta dalla provincia di Torino, c'è una Nico al telefono. Sonia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere un consiglio. Il mio fidanzato dobbiamo pitturare a casa per la prima volta e cercavamo dei colori rilassanti. Tutti ci dicono di utilizzare il grigio, il tortora, colori molto spenti. Dalla voce già mi sembra che non le piaccia, per cui già un colore che non ti piace secondo me non aiuta a rilassare, ma chiediamo al nostro architetto. Sì, allora... è difficilissimo scegliere i colori. Sì, è abbastanza difficile, nel senso che di solito all'interno di un progetto c'è una fase che è il progetto dei colori. Comunque, se vogliamo parlare... in linea di massima possiamo dire che ci sono dei colori che si addicono di più alla zona giorno e dei colori che si addicono di più alla zona notte. Dividiamo la casa chiaramente in questi due grandi spazi. I colori che diciamo si addicono di più alla zona giorno sono quelli che portano alla comunicazione, dato che la zona giorno è la zona all'interno della nostra casa deputata all'incontro. Sì. E questi solitamente sono i colori caldi, che possono essere i toni del giallo, i toni dell'ocra, i toni dell'arancio, o i colori più terrosi, quelli dell'autunno, quindi quindi quelli un e po' rilassano più... anche o fanno solo chiacchierare? No, questi vengono considerati conviviali. Mm. Invece ci sono dei colori, tipo i colori appunto freddi, quindi verdi, blu, gli azzurri, gli stessi bianchi, che sono più portati al rilassamento e quindi alla zona notte che è deputata. Però, ecco, a questo. Secondo me, prima di andare a sentire le Scusa, strade... Scusa Nico, la cosa importante è comunque nell'utilizzo dei colori, non utilizzarli mai in una casa a piena pasta, ma andare ad utilizzarli in modalità molto diluite, perché sennò si può avere il famoso... pugno in un occhio. No, e poi noi cerchiamo il colore rilassante, ma prima di capire se abbiamo bisogno di un colore rilassante, cerchiamo magari di capire un po' qual è la nostra vita, come ci muoviamo in quello spazio, perché magari siamo un po' vittime degli stereotipi, no? La stanza deve essere rilassante, la cucina deve essere calda. Magari poi uno scopre, e magari riusciremo a farlo proprio nel corso della trasmissione, che pensa di avere bisogno di un colore rilassante per il soggiorno, in realtà la sua vita in quel soggiorno non ha bisogno di nessun relax, anzi. Essere e benessere. 800 24 00 24, guardatevi intorno e chiedeteci o dateci consigli per avere una relazione piacevole, positiva, ricaricante, buona, serena con l'ambiente che ci circonda. Ambiente inteso come casa, come stanza, come ufficio, come luogo in cui noi ci ritroviamo, siamo impegnati a svolgere attività o anche solamente a non svolgere alcuna attività, che è una cosa molto produttiva per il nostro benessere, a oziare e a ricaricarci. Nicoletta, dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletta e buongiorno a tutti. Ma io avevo una curiosità in riferimento a quello di cui si parlava prima, degli oggetti che si cambiano, si rinnova la casa. E io sono anche un po' così, che quindi ogni tanto mi piace cambiare, rinnovare. Al contrario, mio marito è una persona che si lega molto agli oggetti e quindi mi chiedevo che cos'è che diciamo nasconde questa cosa, nel senso io faccio fatica per dire a togliere un soprammobile per sostituirlo con un altro, perché lui è legatissimo. Esatto. Professor... la mia curiosità era questa, cos'è che, mentre in altre cose tipo cambiare da quante, colore, da quanti anni siete sposati Nicoletta? 15 anni. Ecco, quindi vuol dire che comunque no, l'attaccamento e invece l'atteggiamento di Nicoletta nei confronti degli oggetti, pur essendo diverso da quello del marito, è armonico, perché 15 anni di convivenza mettono sono altro che posaceneri. Professor Tirelli. È comunque funzionale. Diciamo che quello a cui ci si riferiva prima era proprio un discorso più diciamo specificatamente indirizzato a un discorso di cambiamento del momento della vita. Parleremo poi adesso anche credo proprio di oggetti come la sedia, il tavolo, quant'altro, ma per esempio io uso dire sempre che il nostro materasso rappresenta proprio il nido, è un luogo sacro, il letto è un luogo sacro e quindi ci sono situazioni nei quali la nostra vita ci propone proprio il proposito effettivo di cambiare il materasso, perché lì dentro c'è l'intimità, ci sono gli umori, c'è tutto ciò che riguarda la nostra sfera più intima e ci sono situazioni nelle quali un cambio di vita necessita anche proprio di un cambio fisico, laddove ovviamente questo è possibile. Certo. Però era inteso proprio da questo punto di vista, cioè io lascio anche degli oggetti che hanno rappresentato un qualcosa di estremamente personale e intimo con cui tra l'altro ho condiviso. Certo, lei infatti ha fatto proprio l'esempio del materasso, non a caso, ma noi vogliamo dare anche qualche suggerimento per usi alternative degli oggetti a cui siamo particolarmente affezionati e che usiamo, proprio suggerita anche da Nicoletta, cioè ci sono degli oggetti che noi nella nostra quotidianità, no, usiamo per determinati scopi, ma che possono con l'aiuto del professor Tirelli essere rinnovati. Professore, ad esempio la sedia fatta per sedersi, ma come dicevamo in apertura, noi la utilizzeremo per... Ma per fare anche degli esercizi, perché sia in casa che in ufficio io posso utilizzare questo oggetto. Per esempio, se la sedia ha delle gambe, quindi non la classica sedia con le rotelle, io posso appoggiare i miei talloni alle basi delle gambe della sedia e contrarre in modo isometrico. Cosa vuol dire? per 10 secondi continuativi andando a reclutare quelle che sono le fibre profonde del muscolo, quindi sviluppando una forza che è estremamente importante, e quindi io posso fare 10 contrazioni per esempio per 10 volte. Questo sembra poco, ma in realtà mi sviluppa una forza molto importante sulle gambe, in particolare nei muscoli posteriori. La sedia stessa, poi immaginiamoci l'attimo fuggente, quel momento bellissimo di liberazione in cui uno sale su una sedia. Bello. È quello un momento bellissimo. Quando io posto in casa mia, magari non con le scarpe, utilizzo la sedia come uno stepper, quindi vado su e giù più volte, e lì lavoro molto coi glutei, lavoro molto con... E lì il muscolo si scolpisce. Certo, certo. Oh no, dovete fare delle sedie un po' più bassette per me, professor d'architetto Rolla. Andiamo al tavolo. Beh, il tavolo è una cosa bellissima, per esempio, per allungare un muscolo importantissimo che si chiama iliopsoas. È un muscolo che, quando è troppo forte, diventa limitante per la nostra mobilità articolare lombare. Allora cosa faccio? Mi sdraio a pancia in su, sul tavolo, possibilmente non di vetro, di cristallo, e a questo punto porto praticamente una gamba, una coscia a penzoloni, come si suol dire, lascio cadere, e sentirò un allungamento sulla mia fascia addominale, e porto le braccia verso dietro. Sentirò tutto un allungamento che partirà dal mio collo, arriverà fino addirittura al piede, appunto, che come un pendolo sarà. Ecco, quello mi consentirà di allungare il muscolo psoas, che è quello che sovente mi rompe le scatole quando ho il mal di schiena. E infatti noi abbiamo fatto proprio degli esercizi che potete vedere sul sito: fare gli addominali salvando la schiena, suggeriti dal professor Tirelli. Non apro la parentesi sul letto, dove che può essere utilizzato in mille modi, lei l'ha definito nido. E lì si consumano nido. Tante calorie, in modo molto funzionale e molto bello, chiaramente. Certo, non bisogna essere da soli, quindi vanno i letti matrimoniali per certo, questo. Certo. Vi avevo anticipato che in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Ciro Vestiti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Medico, eccoci. Dietologo dell'Università di Pisa, che ci racconta, dottor Vestita, questa ricerca del CNR di Pisa che suggerisce di aggiungere nel nostro ambiente, di far crescere vicino a noi, nelle nostre case, alcune piante che aiutano a sanare un po' l'aria delle nostre case, che sappiamo non ha nulla a che invidiare con quella delle zone più trafficate delle nostre città. Beh, senz'altro sì, è una ricerca che fra parentesi ripete quello che già i romani facevano nelle loro ville. Basta andare all'Orto Botanico di Napoli e vedere come queste piccole costruzioni siano attorniate da migliaia di felci che avevano il compito praticamente di captare la polvere. Ora più che polvere abbiamo le polveri sottili, che sono molto molto più pericolose, abbiamo fibre d'amianto, abbiamo carbonio che viene fuori dall'usura di freni delle macchine, quindi uno smog molto complesso e molto complicato. Allora, se noi vogliamo, siccome poi quest'aria entra anche in casa nostra, se vogliamo purificare il nostro ambiente, abbiamo delle piante a disposizione, ad esempio il ficus, l'acensia, che sono piante ornamentali che però grazie alla loro superficie immensa, l'immensa superficie delle loro foglie, riescono a captare praticamente queste polveri sottili. Non solo, c'è un assioma in botanica che dice questo riguardo la produzione di ossigeno: una sola pianta di girasole è capace in una notte di produrre ossigeno utile a un condominio. In soldoni, se io voglio stare bene in casa mia, le piante devono essere tante e ben curate, annaffiate spesso, devono essere rigogliose. Queste hanno il potere praticamente di captare soprattutto queste polveri sottili grazie a dei peli piccolissimi della foglia, che si chiamano peli assorbenti. E poi, se vogliamo usare quella tecnica di un tempo, che era mettere piante aromatiche oppure dei frutti aromatici all'interno, Pirandello ci parla delle sue lumie, l'abitudine dei siciliani e paesi siciliani di mettere un cesto di limoni al centro della tavola, si liberano durante la loro permanenza sostanze aromatiche volatili che puliscono praticamente l'ambiente, fra virgolette, ma soprattutto danno un odore piacevole, il bergamotto che era usato per questo, fino a un'applicazione terapeutica che ci ha un po' fatto ricredere, ed è l'acqua antisterica delle suole carmelitane. Cos'è? È acqua di melissa. Il Cicisbeo nel 700 faceva svenire la dama aveva l'acqua antisterica, si riprendeva immediatamente. Noi pensavamo fosse una butata, una stupidaggine, invece non erano le dame astute. Quest'acqua di melissa praticamente riesce un pochino a dare tono, fa star meglio il soggetto semplicemente per inalazione. Poi abbiamo scoperto che per inalazione si assorbe anche i nitrati, praticamente la nitroglicerina, per i problemi cardiaci. Quindi voglio dire, siamo dei nani al solito sulle spalle di giganti, sappiamo certo. Molto poco, però quel poco si associa a quello che veniva fatto secoli fa. Dottor Vestita, grazie. Allora, buone grazie piante a anche a lei. Noi abbiamo un 30 secondini per salutare e ringraziare l'architetto Rolla. Grazie. A voi. Alla Procen. Il professor Tirelli che è di casa, Carmelo Lauricella in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi come sempre preziosa in redazione. Io sono qui, torniamo domani. Intanto, se ci seguite, ci fate un grande piacere. Come sempre, vi invito a scaricarmi. Essere e benessere. We'll be right back.